Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Parliamo naturalmente delle ultime notizie attese, ma non di meno importanti, sul fronte europeo. L'Italia infatti si è astenuta nella votazione per dare il via libera all'accordo sul bilancio UE del 2017. Accaduto questa notte, è la prima volta che l'Italia non vota a favore del bilancio comunitario annuale. Il servizio. Nel prossimo bilancio europeo siamo pronti a ogni tipo di intervento, fino al veto, così Matteo Renzi nel corso della firma del patto per Cagliari in Sardegna. La posizione dell'Italia è stata espressa anche oggi, quando il nostro paese si è astenuto, ed è la prima volta, riguardo alla decisione sul bilancio comunitario annuale. Il Consiglio europeo e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sul bilancio 2017 con impegni totali a 157,88 miliardi. Le proposte dell'Italia sono state recepite, indicano le fonti. Ciò però non è stato ritenuto sufficiente per votare in favore. Una linea in coerenza con la riserva posta nei giorni scorsi sulla revisione di medio periodo del quadro finanziario 2017-2020, che preannuncia appunto un veto italiano sulla programmazione economica comunitaria di lungo periodo. Le principali voci del bilancio oggetto dell'accordo di oggi riguardano le iniziative per la crescita e la creazione di posti di lavoro per 21 miliardi. In aumento del 12% rispetto al 2016, e poi un impegno di quasi 6 miliardi per migrazione e sicurezza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo invece di libera concorrenza, in particolare in relazione alla nuova direttiva europea in materia. È la quarta, dunque il quarto passaggio di un percorso lungo, senz'altro, un percorso che affonda le sue ragioni storiche anche in quei meccanismi di libero scambio che sono alle fondamenta stessa del processo europeo. Il servizio. Più trasparenza, zero corruzione. Così si tutela la libera concorrenza tra imprese in Italia, Europa e nel mondo. Sulla scia degli scandali per la pubblicazione dei Panama Papers, si è capito che il punto chiave per la lotta alla corruzione è combattere l'opacità, la poca o inesistente trasparenza su chi possiede o controlla una società, sui cosiddetti titolari effettivi. Un passo avanti su questa strada è la quarta direttiva europea antiriciclaggio adottata recentemente a livello europeo. Entro dicembre si giungerà poi ad un accordo tra i 28 anche per una quinta direttiva, lo anticipa Isabella Fontana, dirigente dell'ufficio ottavo relazioni internazionali del Ministero delle Finanze. La quarta direttiva del 2015 sarà, diciamo, trasposta allo Stato italiano nel primo semestre del 2017, però sono già cominciati i negoziati sulla quinta direttiva, si faranno dei miglioramenti sull'accesso ai registri. Al momento l'accesso sarà dedicato alle autorità competenti, alle autorità fiscali e ai soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio, quindi banche e professionisti. In futuro ci potrà essere anche un accesso da parte del pubblico al dato sul titolare effettivo. Sarà adottata invece credo nel 2018. Sulla scia di questa direttiva il progetto sulla trasparenza dei titolari effettivi della durata di 12 mesi di Transparency International per individuare leggi e buone pratiche in Europa, in particolare in 6 stati membri. Progetto in collaborazione con Kroll, società di corporate intelligence, il cui numero uno Marianna Vintiadis propone una visura camerale unica e facilmente leggibile, simile alla patente europea. Come uno prende l'attestato antimafia, prende anche quello della regolarità. E la trasparenza europea cresce. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso tutti convocati naturalmente per il nostro consueto programma sportivo. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.